ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, eccomi ancora in viaggio sulle orme di Raffaello Sanzio e sto andando a Roma, cioè la città dove Raffaello approda alla fine del 1508, oramai già pittore molto celebre, seppur ancora molto giovane, e piomba, diciamo, in una delle situazioni migliori per un artista del tempo, cioè il grande cantiere degli appartamenti pontifici che Giulio II ha deciso di riallestire completamente. Giulio II aveva avuto un predecessore che odiava, il Papa Borgia, Alessandro VI, e il Borgia aveva appena sistemato l'appartamento pontificio, nuovo di zecca, ma Giulio II non vuole stare nelle stanze del piano di sotto dove stava l'odiato Borgia e si fa costruire un appartamento nuovo e lì chiama un sacco di artisti, quelli più importanti del tempo, Sodoma, Bramantino, Baldassare Peruzzi, Lorenzo Rocci, sono tutti, arriva anche il giovane Raffaello e lì c'è improvvisamente un cambio di rotta, il Papa decide che sarà Raffaello il capocantiere, quello a quale affidare le stanze che diventano per antonomasia le stanze di Raffaello. Sono circa 4-5 grandi locali dell'appartamento di rappresentanza e Raffaello lascia in questa circostanza una delle più alte prove dell'arte italiana. Abbiamo la cosiddetta stanza della segnatura, cioè dove il Papa firmava i documenti, probabilmente c'era la biblioteca con la scuola di Atene, alcuni affreschi celeberrimi, e poi abbiamo la disputa del sacramento, il Parnaso, e poi subito dopo una seconda stanza, la stanza di Liodoro, dove il Papa, siccome lo Stato Pontificio era in difficoltà, fa vedere come Dio aiuta il Papa nei momenti più gravi, ed ecco la stanza di Eliodoro con le grandi imprese della liberazione di Pietro, eccetera, eccetera. Durante questa lavorazione muore Giulio II, arriva Leone X, che è un Papa fiorentino, è un Medici, che conosce benissimo Raffaello, e lì si va avanti. Raffaello riprende in mano tutte le commissioni e quindi continua ad arredare di meravigliosi affreschi il grande Palazzo Pontificio, che oggi è una delle mete più importanti e continua ad essere lì. Chiunque voglia andare, tra l'altro prenotando con calma, ma oggi i musei sono aperti e si può ammirare questa meraviglia. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.